Sì, è una web radio, si chiama Radioactive, cioè si sente solo in internet. Lui? Sai che noi avevamo fatto una radio a, sì, dove stiamo, in, a Colle Valdelsa, sì, nel lontano 77. Ah, ai tempi delle Radio Libere, questa radio di movimento. Sì, sì. Ah, bello, come si chiamava? Radio Ofelia. Radio Ovelia? Ofelia. Ofelia. Ofelia, ah, sì, no, era un po' sulla falsa riga di Radio Alice, insomma era una radio, caspita, bellissima. Di movimento, era un aggregato di persone che hanno adesso beh, sarà magari no, una così un recupero di quella vecchia idea. Ah. Voi quindi è la prima volta che venite all'edizione grossa della Critical Wine qua a Leoncavallo? È la prima volta, io sono venuto 2 anni fa come visitatore, mentre appunto ancora non, il vino nostro non era pronto, e mi piacque molto l'esperienza, quindi poi mi sono subito iscritto all'associazione e quest'anno mi hanno invitato e quindi ho partecipato. Come avete deciso quindi di aderire a questa idea della critical wine, delle sensibilità planetarie, insomma di farsi sentire come un'alternativa dal basso che cerca comunque di porsi in maniera competitiva con le corporation, insomma, che ci avvelenano? Dunque, noi facendo così agricoltura biologica abbiamo come fondamento della nostra attività proprio questo, di cercare di combattere questi, così, in generale lo spreco di energie, di prodotti, e anche cercare di trovare così un equilibrio nella vita di tutti i giorni, insomma, quindi rispetto anche del luogo in cui vivi e delle persone che ti circondano, insomma, quindi cercare di fare un'agricoltura pulita nei limiti del possibile, ovviamente, insomma, anche noi usiamo un trattore, quindi un po' di gasolio lo consumiamo. L'ideale sarebbe poter fare delle lavorazioni, non so, con degli animali, insomma, io infatti sto cercando. Beh, magari se il trattore andasse, non lo so, all'idrogeno, all'olio di colza o qualcosa di meno inquinante, già potrebbe essere un passo. Potrebbe essere un passo avanti, sì, certo. Ma voi cosa pensate, non lo so, delle pratiche conflittuali dei contadini tipo José Bové, insomma, che sono andati a sradicare i campi di mais geneticamente modificato, insomma, che nonostante le normative europee vengono piantati a cielo aperto e così via, insomma? Ma direi che sì, sono azioni molto, così, anche devo dire rischiose, perché poi lui è stato pure incriminato, eccetera. Io sono d'accordo, nel senso che se ci sono delle leggi europee andrebbero rispettate, e sicuramente sono contro l'utilizzo di organismi geneticamente modificati, assolutamente, insomma, mi sembra che sia così un po' un salto nel vuoto e comunque non sia un metodo di produzione che serve a risolvere dei problemi, che quali sono quelli della fame nel mondo, che non ha certo bisogno degli OGM, avrebbe semmai bisogno di una ridistribuzione delle ricchezze e dei prodotti che effettivamente ci sono in abbondanza, insomma. Ma un giorno la Critical Wine potrà uscire da una dimensione che so di evento, diciamo, dimostrativo, in cui si fa vedere che ci possono essere dei modi di produzione diversi, e diventare un network che riesca anche ad agire politicamente sulle scelte economiche di produzione, di metodo più responsabile, più sensibile all'ambiente, eccetera. Sicuramente questo parte anche da queste attività così di promozionali, e credo che così una consapevolezza delle persone nasca anche dalla partecipazione a questo tipo di esperienze. Poi dal punto di vista pratico loro stanno mettendo in atto questa cosa della carta dei vini, per cui sarà proprio uno strumento proprio di promozione di certi prodotti sulla rete vendita, che sono i ristoranti, le enoteche, cioè proprio la, il mondo reale, insomma, che è meno... In qualche modo condizionerà i consumi, insomma. Ma io me lo auguro, soprattutto condizionerà i consumi se le persone diventano coscienti di questa, differenza tra i vari prodotti, insomma. Beh, per finire un pensiero agli abitanti di Val di Susa, che in questo momento sotto la neve e il gelo stanno resistendo contro l'apertura dei lavori, insomma, di un progetto assolutamente speculativo, devastante per il territorio e di dubbia utilità anche per l'economia, insomma, soprattutto per le economie locali. Certo, sì, beh, questa sì è veramente un assurdo totale. Mi piacerebbe capire fino in fondo, io almeno così personalmente, capire effettivamente quali sono gli obiettivi di chi vuole questa cosa, di chi non la vuole, e soprattutto se dall'altra parte, ad esempio se in Francia questa linea continua effettivamente come alta velocità, oppure di nuovo viene dislocata sulle linee a bassa velocità, perché è veramente una cosa che dalla stampa, che sia di sinistra, di destra o di altro, di centro, non si riesce a capire. Cioè, come sempre, l'informazione non è completa, tende solo a confondere le idee. Comunque io dico una cosa, resistere, devono resistere, perché se loro non la vogliono, quella linea non ci deve essere, cioè se loro hanno la forza di resistere, secondo me nessuno potrà costruire qualcosa che loro non vogliono, no? Cioè... Sì, avranno bisogno di tutti noi però. Esatto. Io non vi ho chiesto però di dove siete, così almeno. Noi siamo della Toscana, di Colle Valdelsa, in provincia di Siena. Che come si chiama l'azienda agricola? La nostra azienda si chiama Colombaia. A Colle Valdelsa e appunto facciamo agricoltura biologica. Tu sei? Io Dante. Elena. Ok, grazie mille. Ciao.